Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto mondo. With all due respect, and you know we've known each other a long time, you really don't know what you're talking about. If the plural of anecdote is not data. Allora Giulia, buongiorno. Buongiorno, sì. Oggi da cosa partiamo? Nancy Pelosi, che è l'equivalente, diciamo, lei nominalmente è la House Speaker, quindi... Però è come se fosse la presidente della Camera Bassa degli Stati Uniti, la House of Representatives, è democratica e quel ramo del Parlamento è controllato dai democratici. E qui se la prende con Wolf Blitzer, che è uno dei più famosi anchorman della CNN. La CNN, fondata da Ted Turner, da sempre finanziatore del Partito Democratico, per certo. Dire che insomma è un network che naturalmente fa del giornalismo obiettivo il suo faro, però è sicuramente un network appunto di stampo, diciamo, liberal democratico. Ciò nonostante... Wolf Blitzer, Nancy Pelosi, gli dice: con tutto il rispetto, e siamo amici da tanto tempo, ma tu non hai idea di che cosa stai parlando. E vi ho preso il pezzo dove ancora era calma, perché poi è proprio uscita dai gangheri, perché Wolf Blitzer la incalzava su una questione che lei continuava a cercare di spiegare, che i meccanismi, e ci crediamo, deve essere lo stesso anche qui, i meccanismi dell'esame di leggi in Parlamento sono molto complessi, ma lui continuava a dire: sì, però se fate muro contro muro su questo nuovo pacchetto di stimoli, perché il vostro è troppo diverso da quello che vogliono i repubblicani, il risultato è che agli americani non arriva niente. Questo però appunto secondo me è una piccola lezione di giornalismo, perché Wolf Blitzer voleva una risposta e continuava a incalzarla. Lei ha perso le staffe, e tra l'altro vi lascio immaginare, ma lo potete vedere da soli sui social, le parodie che invece sono state fatte sui network, diciamo, più pro-Trump, in primis Fox News. Che altro, sempre no, però, sui titoli principali, Giulia? Naturalmente c'è il tema della campagna elettorale, con tutte queste, poi come dicevi tu, poi stasera ci sarà anche questo scontro a distanza, perché non sarà più un dibattito sullo stesso palco, scontro a distanza per modo di dire, perché saranno poi due comizi separati di Donald Trump e di Joe Biden. Naturalmente sì, ieri sono finite queste audizioni in Senato, il Wall Street Journal titola: Barrett ormai è molto vicina, on track, cioè tutto come dicevamo ieri, secondo la scaletta prevista per avere l'approvazione del Senato per la sua nomina. In prima pagina su Wall Street Journal e su molti altri giornali, anche Financial Times, ci sono i primi risultati. Questa è la cosiddetta stagione delle trimestrali, vengono dati i dati per le società quotate, i dati relativi al terzo trimestre e quindi ai primi 9 mesi. Goldman Sachs ha avuto un aumento di utili del 93%. È una banca d'affari, quindi è chiaro che è non Main Street, cioè non l'economia reale, ma Wall Street, quindi la finanza. E nel Wall Street Journal naturalmente anticipa che nei prossimi giorni, già oggi ce ne saranno alcune, quando arriveranno invece i dati delle aziende dell'economia reale, probabilmente non ci saranno queste belle sorprese, saranno di altro genere le sorprese. Allora, ancora una voce forse, sì, da farci sentire. Se vuoi sentiamo la voce di Amy Barrett, che risponde a una domanda di un senatore che si chiama Kennedy, ma non è un democratico, non appartiene alla storica famiglia democratica, è un repubblicano, che le chiede la sua posizione sulle corporation, sulle big corporation, cioè le aziende quotate. Sentiamo Amy Barrett. Do you support in all cases corporations over working people? I do not, and I think if you look at my record, you will see cases in which I've decided in favor of plaintiffs, not corporations. Quindi il senatore dice: ma è vero, insomma, questa leggenda che esiste su di lei come giudice, che quando si trova cause che, dove appunto una grande azienda quotata ha questa grande azienda quotata viene fatto causa dalle persone o da chi lavora, e decide sempre in favore delle corporations, e lei dice no, assolutamente no, e poi comunque le sentenze che ho firmato parlano da sole, è lo stesso concetto che ripete da giorni. giorni. Io non ho preconcetti, per me la legge è sacra. Tra l'altro ho scoperto, e ne parlano oggi New York Times e Washington Post, che lei appartiene a questa corrente di interpretazione della Costituzione che si chiama originalista, cioè lei, e qui naturalmente uno potrebbe dire sì, ma la Costituzione ha più di due secoli, forse è stata scritta per tempi diversi, lei appartiene proprio giuridicamente, come era il giudice Scalia, anch'egli di conservatore, che appunto vuole prendere la Costituzione alla lettera, benché, ripeto, siano passati molti anni, quindi certe cose forse semplicemente non si adattano più a come è cambiato il mondo. Giulia, c'è un caso che sta salendo a livello internazionale, quello della Thailandia. Che cosa sta succedendo in questo paese molto agitato in questo periodo? C'è un coprifuoco, come lo chiamano i francesi, couvre-feu, ma perché è la parola, abbiamo sentito Danilo Ceccarelli, ma naturalmente è la notizia su tutte le prime pagine dei giornali francesi. Qui il coprifuoco in Thailandia non è per il Covid, anche se naturalmente anche in Thailandia ci sono dei casi, perché lì invece continuano le proteste. Sapete che la Thailandia è sostanzialmente una monarchia, non proprio una dittatura, ma con un grandissimo potere della monarchia, e soprattutto i giovani, utilizzando i social network, come abbiamo detto già in passato, e collegandosi con i loro colleghi, possiamo dire, di protesta a Hong Kong, a Taiwan, scendono in piazza, si mettono d'accordo sul web e poi scendono in piazza, e c'è un coprifuoco per impedire, perché l'impressione è che queste proteste innanzitutto non accennino a finire, e naturalmente l'ultima carta è quella di reprimerle con la forza, o comunque di usare più forze di polizia per disperdere i manifestanti. Questi giovani però non sembrano, sono troppo affamati di libertà e di vivere in un mondo diverso da quello che hanno conosciuto i loro genitori. A proposito, citavi proprio anche l'espressione francese, i giornali francesi come hanno accolto quello di cui parlavamo poco fa con Danilo Ceccarelli? Dacci un po' la fotografia dei titoli e le impressioni. Sì, Libération ha una foto di una fontana di Parigi, e sullo sfondo c'è proprio la sagoma, quasi un'ombra cinese, bonne nuit, quindi buonanotte. Naturalmente il tema è quello appunto che di sera bisognerà stare a casa. E invece Le Figaro ha un editoriale, il solito editoriale di prima pagina, che si intitola I giorni tristi, e spiega un po' come dare torto a questa interpretazione, che insomma ormai è da febbraio che viviamo questo confinamento, e se diventasse anche naturalmente economico, il nostro mondo non è costruito per essere, come posso dire, una società dell'ozio, voluto, scelto, imposto. Se si blocca tutto, si blocca naturalmente non soltanto la vita sociale, ma proprio la tristezza dell'economia. Forse l'ironia che l'economia venne chiamata la scienza triste, ma appunto se il, anche in Francia diventa di nuovo uno stop alle attività economiche, beh, altro che tristezza. Senza economia siamo tutti un po' più tristi, senza economia che gira. Germania, forse sì, abbiamo ancora il tempo per qualche titolo. Sì. Se volete sentiamo qualche parola di Angela Merkel, sì, che ieri molto molto naturalmente con la sua mascherina azzurra chirurgica, non frivola come quelle di Nancy Pelosi, ha parlato alla nazione. Und deshalb möchte ich auch nochmal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren. In dieser entscheidenden kritischen Phase des Herbstes ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auch mitmachen weiter. Burger, cos'è? Sindaci, no, cittadini. Quindi le cittadine e i cittadini, sì, ho bisogno del vostro aiuto. Ho usato questo verbo tedesco bellissimo che è mitmachen, che vuol dire fare qualche cosa insieme. Cioè il piacere appunto di, insomma è un verbo che si può usare per qualsiasi cosa, ma ha un'accezione molto positiva, cioè non è semplicemente l'unione fa la forza, è proprio facciamo questa cosa insieme, e soltanto così affrontiamo questo inverno, Herbst, che naturalmente è la stagione in cui si sta per forza di cose più in casa e non si può uscire, come invece lei dice, all'inizio della pandemia avevamo di fronte la Frühling, la primavera e l'estate, adesso abbiamo di fronte l'autunno e l'inverno, e vi prego tutti di ascoltare le parole, perché poi ha dato la parola al suo epidemiologo di fiducia, che ha ripetuto del resto le cose che abbiamo sentito tutti, insomma di evitare un contagio troppo veloce da parte di chi magari non ha conseguenze gravi, quindi asintomatici, certo, o poco sintomatici, però poi possono trasmetterlo, esatto, a chi è in condizioni più critiche. Grazie Giulia Crivelli, è tutto per oggi, noi ci risentiamo domani naturalmente per la puntata di oggi. Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione, in assistenza. Ci risentiamo tra poco con l'aggiornamento da Alessio Maurizio. Ciao, buona giornata.